rispondi bene, Altari, ma non è come dici tu. Non è come dici tu, il bosio me lo porta appresso, perché c'ho sole e cuore dentro qua. Solo che poi la sera, prima di andarmene, verso le 7:30, 2:25, così vado a lavarmi in bagno, lo appoggio e qualche volta me lo dimentico. Però se tu lo metti nel sedile davanti della macchina, e prima di partire controlli a vedere se c'è il borsello, ma tranquillo, non te lo dimentichi più a Porto Torres. Vabbè, mi faccio in diretta, cosa vuoi fare? Dopo di la facitudine, vedi tu cavallo, oppure un diretto supplementare. Ormai questa storia la conosco come le tasche. Sì, d'accordo che la conosci, ma io lo metto sempre davanti il borsello, a fianco a me, addirittura gli metto la, con la cinghia, gliela metto attaccata al coso delle cinture, in modo che se vanno a strapparmelo e qualcuno mi apre lo sportello, non me lo posso attirare, perché è bloccato lì. Ma io come faccio questo? Forse sei piaciuto con una ragazza, ah, lì ti do io. Ah, tu, se ti posi la vicina, sei un canattarizzo, sempre riato come ti di Dio. E vedrai che non te lo dimentichi, perché vedi la cinghia del borsello. Stavo scherzando. Tu, Rubone, per esempio, in alto non si dice il marito, Rubone. Invece te lo devi mettere a fianco, a te, il borsello. Capito? La sera ferma col rosso, mi ha aperto lo sportello della macchina e gli ho rubato la borsetta. Ma se lo fanno a me, non se lo fanno sanno. A parte che non lo possono trattare perché io lo metto in terra, ma anche nel sedile, e non si vede. Lo metto in terra e con la cinghia attaccata dove attacchi le cinture. Vai a tirarmi tu se mi vedi. Io lo metto in terra, lo metto a fianco a me in terra il borsello, non so per sedile. E poi gli attacco la cinghia, dove attacchi le cinture tu. Ti arrivito a Porto Torres, capo. E vai, recupera e torna, cava gara. Recupero, mi faccio un bel palinotto, dove sei tu? Ehi, infatti, è un bel dittico, gatta, a parte rubarmi in chivi, ma te c'è un disegno, chi in chivi ti fa dei nomi, almeno ti mangi anche un bel palinotto, che la gara. Vado lì, vado. Da dopo, come ti si chiamava? L'ultimo, e già siamo compresi, non di è. Quello vicino al capriccio. Ma che te ne sei dato fuori di cose buon gustaie? Dove sei arrivato? Io Salve! Sono Giorgio Fra. Ah, cava, cava. Allora senti cosa vorrebbe, Natale. Sì, te lo sento. In questo momento sono arrivato. Allora, entro, recuperi questa cosa. Sì, se non sei riaffurato. Ah, non penso. Ma se la colleghi in gamba, penso non succede niente. Ehi, ma non ve la fidate assai, compreso. Non ce la fidate di molto, perché c'è la patente dentro, ma non tanto per i soldi, c'è le carte di credito, c'è il coso degli assegni, il codice fiscale, insomma, non fa a lasciarlo. Quello è, quello è. Aveva sempre la passeggiata, assomiglia un pane nostro, lo sa lui. E così rientra un bel carico. Grazie. Grazie. L'acqua di luce. cosa, ma vedo un freddo, ma la bacca le dai. Roberto non è stabile, no, non lo sai come te, ancora non è stabile. Ci va giù l'antenna, in antarolo della battella, un chimi. Vai, ci vuoi come facciarla, no? E allora l'ho attaccata lì, per, così almeno quando fa bel tempo ce la salvo su. C'è un diplomo che è Benzoloni, perché ce l'ho salito, però non l'ho potuto ancorare, da qui ne farà da radio. c'è stata la boccina sotto forno, guardi che ci hanno il doppio ru, l'hai trovato? Ho bisogno di chiamare chi l'ha visto? A me prende! Ehi, attendo io! E riganare due! Lo metti! Riganare due! Mega le so io! Già, ti fai bravo, che noi li avrò provati e usa! Ma è per la rete, me lo so Gianni, me! E che sei, sì? Valtereddu, no! Valtereddu! Anda bene, Valtereddu! A me per la rete! Ehi, come gli altri tenno bene, a Valtereddu? E da dove siamo tu, un motovente? La muro non lo fai bene! Dai, muro, no! E tu dove sei? Di tattari so! Di tattari! E poi ti devo usare la martella in mezzo! Niente! Niente salato! Sì, per usare la martella in mezzo! Niente! E non è cazzo, però! Thank you. ho messo male. E a me sono bizzarre. Ho capito. stava di più. Positivo al campo. voce, buonasera a tutti e ben ascoltati, K. Ciao Massimiliano. Ciao, buonasera, ben ascoltato anche a te. Allora, che rientro, paese. Ma è stato avanti, non è stato avanti a casa, mi sono dedicato un po' sera, sono avuto ricetto. Ciao, ci risentiamo. Avanti Gianni! Sono addirittura. Ma che Pierino, Pierino va. Thank you. a fondo scala. Continua. Ma ti piace? forse voi. Per fare scherzi va bene. E appunto io ho preso le parole. faccio il cazzo ti piaccia, non fare queste cose, ho detto, magari. Fatto la fotografia in pigiama, ti immagini. Adesso fotografia di tutta andare, mi intende. Ma tra te non c'è da fare ancora. Le dosche. La vita. è fuori di sé da cosa c'è questo coso. Ma quello già lo fa, già studia, se non lo prendiamo. Buonasera Giuseppe, quello che ho comprato per i riscaldati. E finalmente mi sono messo a mio agio qui. Come Pierpa? Con l'S9. Per nulla. Anda bene mera. Gianni, ti sei accorto che io sono andato dritto, sì? Sì, dopo. Ti ho anche suonato, ma non trovavo... Siccome ce l'hanno le razze, il clacson, la macchina mia, sono andato a cercarla al centro, dove ho buttato le furgoni, e invece non l'ho trovato subito, ti ho suonato dopo, ho gritato. K, l'ho sentito. K, sì, che ti ho visto che c'era la tele, ma potevi passare anche dove stavo passando io, qui a Pasqua. Lo so, era giusto per evitarmi quel pezzo lì del chilometro. Lì. K. Scommetto che ci stavi ascoltando, ascoltone. No, negativo, se devo essere sincero, ho messo a caricare adesso il ragazzo. Prima volta quanto lo devi lasciare in carica, Giuseppe? C'è scritto nel libretto dell'istruzione, mi pare sia roba di 12 ore. Infatti, solitamente così. Io adesso lo lascio tutta la notte attaccato, dopodiché domani mattina dovrei trovare la lucetta verde, perché ancora da quando ce l'ho non l'ho lasciato, non gli ho fatto fare una carica completa. Male, la prima carica vuole sempre fatta completamente, perché poi se no la batteria non tiene la memoria. K, io faccio finta che mi è arrivato stasera e l'ho messo a caricare, tanto l'ho convinto anche a lui. Se ci hai preso la mano, l'hai tutto scritto, sì. No, ancora non ho scritto niente. E sono riuscito a liberarmi proprio in questo momento, perché come sono arrivato c'era Veronica, come mi ha sentito la porta era un grillo già. E io c'è Marco qua. Questo Nintendo 10 sta uscendo di testa. Mi fa tutto quanto questo Nintendo. Bellissimo, fare la fotocamera. C'ha il variatore di voce, ti camufla la voce, te la fa da signorina grossa, insomma, è bellino. Hai visto che anche Cicito al Nintendo? No. Se c'aveva la PlayStation, è stato un po' la fessilia a comprare, ma c'è degli gambi. L'ha detto a tutti i compagni di scuola, dice che volevano venire a giocarci, la sabbia che ti rifascia. infatti, che ci sono buoni solo in fasciata, poi si mandano e gli lasciano il relitto in terra, meglio che se lo cova lui. Infatti io mi ricordo, mia sorella, quella che adesso sta male, per me andava male, proprio trattava, proprio comprava regali di tutto, mi compriva di tante cose. Una volta mi ha regalato questo macchinone, questa Porsche, enorme, grandissima, radiocomandata, senza fili. Praticamente accendeva le luci, metteva le frecce, apriva gli sportelli tutti elettronicamente. L'ho portata giù, questo bambino, dai, fammela usare, me l'ha fasciata, da poi quando l'hai fasciata se ne è andata, me l'ha lasciato con un pugno di mosche. E cappa, quello è un classico delle amicizie. Bisogna essere un pochino gelosi delle proprie cose. E io lo sono e lo fui. Io sono uguale. Ma bambini sono fatti così. Tante volte anche i genitori quando vedono un bambino che vuole giocare, dai, fanno giocare, sai, non si può essere. E così hanno fatto con la bicicletta, che mi hanno spaccato il telaio, questa amica mi ha chiesto in giro, sono andato a cercare e si è spaccato il telaio, poi Gianni la faceva riparare. È normale, datemi 2 minutini di bianco, sto arrivando. Avanti Pierpaolo. Ho stretto. Sono stretto. Sono stretto. Si chiama. questo laccio ostetrico ancora, aspetta, sto guardando nel vocabolario, che vocabolo è questo laccio ostetrico. Antonio, ti tiro le orecchie. Ostetrico, ecco. Ma niente, tu devi una voce, la marasso chi è che sto cosa? Laccio mostato. Cosa serve? È un elastico che serve per fermare il sangue. Ho capito adesso. Io credo che si sia fatta la cosa. Bianchi. distribuire l'acqua. Thank you. comanda Benevela, allora ci organizziamo così alla grande. Per me non c'è problema. Io, il termos comunque mi ha confermato Lella che qui c'è. Ma se ne procuriamo un altro, facciamo anche un paio di caffettiere di caffè, non c'è problema. Ma guarda, secondo come lo prendo uno anch'io di coso. Aspetta un attimo che mia moglie mi ha passato una velina qui. E cos'è questa porcheria lì? Canzoni anni 60 e cose. Sì, ma ci sarà anche un coso, un sito, un qualcosa, perché se io metto anche sento sue mulle, già che si gira, non penso proprio che mi tocchi a nulla. Allora, mi ha detto che hanno fatto un CD che è uscito da poco e si chiama Chuck si gira e ci sono tutte le canzoni anni 60-70, ma non penso che ancora ci sia in internet questa storia qui, tutto lì era. E infatti è roba troppo nuova questa per là, poi vediamo più là, dai. Gianni? Ah, già ci sei, sì. Allora non eri tu il surrago, io sentivo un surraghetto. Poi questa di fronte. Probabilmente, se tu ti succede, ce l'è. Ehi, ha fatto professionale, Una foto professionale, praticamente la camuffa. Mi mette gli occhiali dove non ci sono, eccetera, eccetera. Qua. L'ho visto. Guarda, questa, dove sto piangendo. Sta facendo delle foto, oi. Ti è vestito anche da gatto. Ma me ne compro uno già di quelle lì. Poco è... tecnologico. Domanda. Come mai Marcolino non sta facendo ancora la nanna oggi? Io? A me la sta facendo la domanda, scusa, perché sta facendo una roba. Perché c'ha questo intento di esagerare? Perché in genere a quest'ora era beatamente tra le braccia di Morfeo. È vicino a me, ma sta cercando di scoprirlo. Che si vuol fare? Anche noi alla sua età eravamo così. Oh, non avevamo quei giochi, però sai, anche quei piccoli giochetti che riuscivamo a recuperare erano sempre una novità per noi. Una macchinetta usata. Io c'era l'Atari. Io l'Atari 2006. Allora, ci si arrangiava con poco. Sì, ma bisognava usare giorno zero, no? Come lo senti? Se fuggevi dal ragazzo. E le mettevi la cemosa di quella del cruscio. Davano, lo intende no. No. Ah, no. Giuseppe, riprendi, che vi ascolto. Ah, ci intende no. No, Gianni ha detto, riprendete voi che io vi ascolto. Segno brutto. Gianni, domani ti chiamo alle 7:15. Stamattina mi ha fatto spaventare Giuseppe. Però forse per Paolo che mi ha chiamato presto, dove c'è? Anche tu. Paolo. Paga. Come trova? Gianni, comunque di la verità che è stato un piacere per te sentire la mia voce di mattina presto. Cappa, ma ero già sveglio. Oh, Pierpaolo, non si è accorto che non avevo ancora chiuso il telefono. No, tranquillo Giuseppe, ciao, ci sei. Ah, ci maledizi, dannazione. Sei ancora al telefono Giuseppe, non mi sono capisato. Guarda, questi scanner poi... Io avrei telefonato a Desiremi o Gianni. Nulla all'ordine. Potrei anche cambiarlo, ne aggiungo qualcosa per comprare un superiore. Dai, non farlo. No, mi compro quello, non l'abbiamo deciso. Cappa. Poi già spedito. Ci devi telefonare. Telefonare già Zizia, ma che ti sarebbe celletta se ti passava il tecnico, ma quando mai? Vediamo che adesso non mi trovi ringhi anche con apparecchi per pigliare, ma lo conosce amici. Oggi speriamo che non trovi qualche inghippo per far funzionare anche quello là. Cioè, della serie che non ti funzioni. E loro rimanovrano un po' questi apparecchi, capito? Che li aggiustano anche. E magari riesce a farlo funzionare, cosa ne so? Magari anche il figlio, anche il gol. Universale, io ce l'ho un digitale e te lo do, passi e te lo prendi, è l'uovo nuovo. so se va bene quello dei Chovic. Guarda che ce li hanno anche i cinesi, i telecomandi universali. Ti ho detto che mi è partito anche il digitale. Collegamento che sono sfigato, mi è partito, mi hanno mandato l'apparecchio rotto, il digitale che mi è partito, insomma, prima prevede. Cazzo, la dirigente mi si pure. Me lo faccio prestare, dico che devo copiare la sintonizzazione. Dico, ma Giuseppe, questa cosa è tutto quanto vuoto, come mai si è perso le memorie? Gente senza cuore. Grandi qua cuore. Ciao Lucri. Bello Cristian. Avanti Giuseppe. Ciao Luca, ben sentito e ben trovato. Sì, Giuseppe, carissimo. Perché mi senti qua? Io ero di passaggio. Mi sono qua vicino. Mi sono domani, ho lavoro. Mi sto rilassando. Per modo di dire, rilassando. Via, se questo è rilassamento. Il computer. Proprio una droga, ecco, non fa farne a meno, ma non mi consiglio io. Io prima Luca stavo sino alle 3 di mattina con chi, poi me ne farà. Cazzo, no vabbè, sino alle 3 non dipende, cazzo, ci manca un computer, ci manca l'avvio di Windows. Ma sta una delusione, chat, non è tocchino più. Tu lo segui un vado, scusa. Luca, ma sbaglio, hai detto che è una droga, te ne vuoi disfare? Sì. Fai una cosa, mettilo in mezzo alla strada, fra 2 minuti sto passando io in macchina. Però vuoi dire che io vado, perché tu non puoi avere un'amicizia in chat, eccetera, eccetera, perché se qui io vado, usa vento. Che tipo di delusione, scusa? Perché se è una delusione, poi uno cambia, no? Ma altrove, lo trovo illicito. No, ma siccome io ero piccolo da 10 anni con questa persona, e poi ho avuto la delusione, non ho più toccato il chat, non ho più voluto sapere. No, ho capito. Bisogna che ti dica, purtroppo su internet trovi gente cattiva e gente non cattiva, come la vita reale, no? Tu cosa ne dici? Vabbè, non ho quello di avere, ma non cattiva, per carità, una persona in grandissima, non cattiva. Purtroppo, mia moglie, è la tua moglie. Cioè si aveva cambiato un nick e si chattava con me. Mi ha abbigliato a Bangulo. Negativo, io sono qui in camera ancora. Qua dove arrivano le donne, andava da quella di fronte a cercare. Ma come fate a sapere di tu? È Benic, lo conosci, non lo so. Ma è stato appuntamento. Ma cosa fate che era di Sassari, di fuori? Di fuori? Sono stato per un bel po' di anni cercando. Alla fine la parola. Ma lei si è andato sul solo, no? No. Per forza tu una roba. No, era un'amicizia. Dicevo che era simpatico. arti, che questo e quest'altro, però niente di più di... Oh Gianni, eh? Oserei dire una mente diabolica. Beh no, mi sono arrivato con le donne, e una volta mi ha fatto il telefono da un'amica dicendomi che mi conosceva, che questo e quell'altro, io l'amica, la voce dell'amica non la conoscevo, per cui, chissà che era chissà. E detto qua, se voi possiamo trovare questa e quella che ti ascolta, noi siamo in io sono sposato e cosa, cazzo. Che è venuto a casa, mi ha tutto baciato, perché cosa ti è successo? Cosa hai vinto? Non ho vinto niente, ho scoperto che la persona che sei. Quello è essere onesti, Vabbè, io infatti ho detto lasciami prendere, sono sposato, non mi tentare, mi spiace però, mi devo toccare il tondo così. Quello che ha fatto una bella figura anche con la Nicola. E capa di positivo, più che una bella figura un figurone direi. E capa, ma si appena avete sgarrato un arruccio da retto. Ciao gno gno. Non lo sgarro io, sono fatto così. Sgarrare proprio mi devi... mi devi tentare in una maniera allucinante. Spero che sia qualche madonna. Quando si parlano di queste cose, al telefono bisogna lasciar perdere, perché oramai già bisogna saperli fare cose, hai capito? Teatro tu c'è esperienza, io no. Bisogna essere molto molto furbacchioni. Lo so, so. Infatti non è per me, non è per me perché non mi ha fatto niente. No, bisogna essere così. 100 pezzi. Una ne pensi e c'è allora. Una ne pensi e altre 100 ne devi pensare. Diga. Cappa di positivo. E nonno diceva, in tempo di guerra anche l'aceto di setta. E vabbè, sono un modo di pensare, sare. Io penso di non aver bisogno di andare a cercare altrove. Che se ne frega, mi sono divertito da ragazza. Due buoni di casini, avanti, la famiglia. Stavolta no. La ragazza mi ha divertito per pane, non posso dire il contrario, però ma va, basta. E voi quando si anziani come te è meglio smettere. È vero. Io sono anziano, tu invece sei giovane. Bisogna piantare subito le tende e la sua calmata perché potrebbe esserci un fatto dietro quando si così anziani. È vero. Poi non puoi prendere manco Viagra se la ti fa male, ti fa bene l'infarto. Lo sai, l'infarto è dietro l'anno, poi lo prendo. Non va bene, quindi dacci una calmata. Vabbè. Va bene così. Show. Per farvi contenti, non vedo. sul muro 18 anni, prima vera a me, calpestando già. passando. Gianni, come la sto calpestando? Bene, bene, dai. Allora possiamo continuare il nostro discorso senza nessun problema. E riprenditela già. Cosa me la riprendo da io adesso? Aspetta che vi ascolto, se non è troppo confetto questa volta. Vi ascolto, vi auguro buonanotte, ci sentiamo domani. Io me ne vado a tannare, anzi vi ascolto solo un po' per quando vi addormento, già me lo sveglio mia moglie, non parico. Ciao. Buonanotte, buonanotte. Ciao Gian, ci sentiamo alle prossime, dai. 244 e buon tutto. Ci sentiamo presto, ciao. Avanti Pierpa. Ciao, buonanotte, tranquillo, ti sto dicendo che stai passando alla grande, non ti sta disturbando assolutamente. Altrettanto i casi per Pierpaolo, state passando assolutamente bene, senza nessun disturbo. E confermo al 100. Anda bene Meda, va bene, non c'è problema. Appunto che non la senti tutti, poi mi tirare via su. Chiamata qui o sul 5? ciao Antonio, buon 144 e buon trabacco per domani. Ce la risentiamo domattina senza mancare. Di positivo, buonanotte anche a te Antonio, ciao ciao.